comunicare una cosa ai nostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sentire quello che ha detto Vladimir Luxuria ieri, perché ha detto delle cose molto pesanti su Micaela Biancofiore. Iniziamo subito da questo, facendo risentire Luxuria di ieri sulla Biancofiore, perché ha parlato di cose anche sessuali, dicendo che la Biancofiore non fa sesso, cioè che le posizioni della Biancofiore sui trans, le posizioni della Biancofiore sui gay, eccetera, sono dettate da che cosa? Da una sorta di ossessione, da una sorta di ossessione, perché sostanzialmente, io lo dico chiaro e tondo, secondo Luxuria la Biancofiore non scopa. Sai qual è il problema della Biancofiore, Cruciale? Allora, io mi accorgo che dopo una settimana o 10 giorni che non faccio sesso, comincio a diventare un po' nervosa, sinceramente, anche un po' isterica. E ho bisogno veramente di farmi una bella ripassata a letto e mi sveglio il giorno dopo come so tranquilla, rilassata, in pace con me stessa, ecco. Visto che la Biancofiore è ossessionata dalle trans col gingillo, una donna che non ha l'invidia del pene ma semmai la nostalgia, io faccio un appello: si trovi qualcuno che se la trastulli, che se la ripassi un attimo, che le tolga i calcinacci dalle mutande, perché veramente questa donna, secondo me, con questa espressione da tartaruga stitica che si intromette sempre nella vita sessuale degli altri, ha bisogno di farsi una bella notte di sesso, così si tranquillizza. Allora, un'altra cosa, lunedì scorso a Piazza Pulita c'era un ragazzino di 14 anni. Sì, Nuovo Travaglio. Sì, non so se Nuovo Travaglio, militante dei 5 Stelle, ma lo pensi tu Nuovo Travaglio o una roba così che hanno hai letto? Scritto. Hanno scritto roba, chi? Così, chi hanno scritto? Comunque, vabbè. Beh, hanno scritto un po' tutti. Sì, sui, sì, Nuovo Travaglio, comunque sì, un una specie di blogger, dicono a 14 anni, blogger, comunque molto grillino, almeno così è stato presentato, si chiama Marco Colarossi, che a 14 anni ha letto, ascoltato, visto il programma, eccetera, gli studi, e poi a un certo punto ha fatto dei commenti su quello che diceva Nardella. Ora, noi qui alla Zanzara abbiamo sempre criticato il fatto che venivano portati alle manifestazioni spesso della sinistra i bambini utilizzati, è un caso diverso, però vi posso dire la verità, a me un quattordicenne che sta lì, peraltro, per carità, intelligentissimo, più avanti degli altri, impegnato in politica, sì, a me sembra una specie di mostro, cioè uno di 14 anni che sta lì, comunque lasciamo perdere, uno che di 14 anni, secondo me, a fare il come si dice, il savonarola, a fare, non è che mi piaccia tantissimo, poi, cioè, non voglio fare il bacchettone, figuriamoci se faccio il bacchettone. perché cosa? Cioè, trovi uno di 14 anni bravo a parlare di 14 anni. Ma sono tanti i ragazzi che fanno politica fin da giovani, eh? Sì, ho capito, quindi... sì, d'accordo. Io anche, per dirti, fin dalla quarta ginnasia facevo politica. A te non ti stupisce? Non no, ti stupisce. Mi piace la partecipazione dei bambini, cioè, ragazzini. C'è un 14enne che sta lì in televisione. Ma io stesso a 14 anni facevo politica, certo. Ma come me ce n'erano anche Giorgia Meloni, ad esempio, che io conobbi proprio negli anni di liceo. Sì. Ma una cosa è fare politica nelle sezioni, una cosa è fare politica nelle sezioni. A scuola, al liceo, al ginnasio. Una cosa è questa, una cosa è andare in televisione, evidentemente con il consenso dei genitori, perché in televisione non è che ci vai contro il consenso, no? Cioè, quando tu sei a scuola a 14 anni, a 16 anni, al primo liceo, fai politica anche, ma non è che i genitori ti devono dare l'autorizzazione. Per andare in televisione un minore ha bisogno dell'autorizzazione dei genitori. È un po' diverso, è un po' diverso. Comunque. Il candidato di Forza Italia, che lei dice che ha la ricchezza degli argomenti, con lo stesso partito gli state facendo le riforme, cioè gli state cambiando la Costituzione, quindi io non li attaccherei tanto perché non hanno argomenti, perché se ci state facendo le riforme, insomma, vuol dire qualche argomento ce l'avete, va bene, ok. Grazie a Marco Colarossi. Quest'ultima non è male, però. Allora, faccio i complimenti a Marco, non so se è davvero. State facendo le riforme col condannato, no? Così diceva Nardella Colarossi, che è bravissimo, per carità, sto 14enne, è bravissimo. Però io resto un po' dubbioso sul fatto che viene utilizzato in una trasmissione. Ma non utilizzato, mica utilizzato, ce l'hanno, cioè c'è andato in modo consapevole. Utilizzato, secondo me è utilizzato, ma mica lo dico in senso, utilizzato in una trasmissione televisiva, un 14enne. Il mio idolo oggi però è un altro, il mio idolo assoluto. Sai che c'è questa polemica sugli stipendi della Camera, dei dipendenti della Camera. Sì, sì. La Boldrini annuncia una riforma epocale, cioè di averli... su questo se la fa davvero. No, di averli ridotti. Se uno va a vedere nelle pieghe di questa roba qui, in realtà l'intervento è molto scarso, perché si interviene sulla busta paga, dopodiché ci sono le indennità, eccetera, eccetera. Poi con tempi lunghissimi, tra 4 anni, eccetera. Ma il numero uno è un altro, un deputato di Scelta Civica che si chiama Vecchio, Andrea Vecchio, deputato siciliano di Scelta Civica. Scelta Civica o Sciolta Civica, un partito che sostanzialmente non esiste più. Il quale vecchio dice che sono tagli finti, che non è vero che vengono eliminati gli sprechi, ma questo vedremo. Senti che dice: si tratta di tagli fasulli, di un'inaccettabile presa in giro di tutti quegli italiani che sperano ancora di non essere della politica, eccetera, eccetera. Senti, sono centinaia, parlando dei dipendenti della Camera, sono centinaia i protetti dalla politica, ridicolmente vestiti in livrea come dei camerieri, grottescamente remissivi e servizievoli con i cosiddetti onorevoli, che per questa loro mansuetudine bovina verso dei dipendenti della Camera, percepiscono buste paga da sogno senza avere alcuna competenza che le giustifichi. Anzi, i dipendenti della Camera sono assolutamente improduttivi. Beh, questo è il mio mito di oggi. Pensa te, invece, quello che succede a Livorno, dove c'è il nostro amico Cardinali. Pensavo dicessi a Napoli. No, che succede a Napoli? Con De Magistris che fa stagione. Ma De Magistris, battaglia. Sì, vabbè, ma sti cazzi. È arrivata la sentenza. Sì. Salutamela. Sì, va bene. Che fate? È il titolo della Repubblica? Sì, salutamela. No, non so, ho letto. Salutamela, De Magistris. I titoli dei giornali perché, in treno. Perché Alfano oggi ha detto che sarà sospeso. Tra l'altro, non è che si annuncia come la sospensione. Alfano, peraltro, ma in questo caso. Ma ecco, questo poi magari ne parleremo, cioè, dopo. Alfano annuncia la sospensione. Ma la sospensione sì, non si lo fa annunciare. Questa volta. E fa bene, perché. Però ma non lo si fa deve in annunciare modo la sospensione. Talmente eclatante, ma poi forse ne parleremo. Rispetto ad altri casi sui quali invece è stato molto critico, dubbioso, pensoso, mentre qui mi pare risoluto e anche come sì, dire perché, voglio, perché De Magistris è un nemico politico, dunque è una semplice si premura notazione Alfano, che faccio, si premura Alfano di andare alla Camera ad annunciare la sospensione. Bravo. Ma non si annuncia la sospensione, la cioè, sospensione lo usa come, no, come sigillo politico questa roba qui. Senti, la usa, la senti blandisce questa cosa. Senti, sentiamo Alfano, allora va Alfano alla Camera. Nel caso in esame, il prefetto di Napoli ha ricevuto comunicazione della sentenza proprio nella mattinata di oggi e dunque procederà oggi stesso agli adempimenti di legge di sua specifica competenza relativamente alla sospensione del sindaco De Magistris. Allora, quello sospende la sentenza, sospende il sindaco. Non è che la sospensione viene annunciata dal ministro degli interni. Dai, su. Che succede invece a Livorno? Qualcosa di molto meno importante, chiaramente. Però c'è un prete che ha scritto a sindaco e prefetto perché secondo lui il vernacoliere ha esagerato. Il vernacoliere, tu capito? Amico. Il vernacoliere. Giornale vernacoliere. Cioè un prete dice che il vernacoliere ha esagerato, a parte che il vernacoliere esagera per natura. Il titolo incriminato del vernacoliere è questo: preti pedofili, un'idea del Papa. Braccialetto elettronico all'uccello per vedere dove lo mettano. Beh, è bellissimo il titolo, no? Ripeto, stupendo. Preti pedofili, un'idea del Papa. Bisognerebbe dirla in toscano. No, in livornese. Vabbè, non in toscano. Sì, ho capito, ma diciamola diverso, in toscano. È vernacolo, è diverso il livornese dal pisano. Vabbè, preti pedofili, un'idea del Papa. Braccialetto elettronico all'uccello per vedere dove lo mettano. E si è incazzato il parroco, un parroco di Livorno, Don Medori. Cardinali gli ha dato pure del fascista, va, sentiamo. Probabilmente questo parroco, questo prete, pensava di essere, non dico ai tempi della Santa Inquisizione, ma quantomeno ai tempi del Papa Re, o possiamo aggiornare anche ai tempi del clerico fascismo, quando legioni di preti sfilavano davanti al duce a mano alzata, ben pronti a tacitare, a riprendere e a suggerire prudenza agli oppositori del regime. Cioè Don Medori dovrebbe incazzarsi con i preti pedofili, non col vernacoliere, probabilmente lo farà anche, non col vernacoliere che semplicemente fa il suo mestiere di satira da tantissimi anni. Invece dice che dovrebbe essere più prudente il direttore del vernacoliere e manda una lettera al prefetto, al sindaco, non so a chi. Don Medori, dai. Girano ancora questi che sono contrari alla prostituzione, gli amici tuoi, quelli che sono contrari alla prostituzione, vorrebbero punire i clienti, dicono che la prostituzione deve scomparire. Sì, sono diventati amici tuoi perché sono favorevole alla punizione diversa dei clienti della prostituzione. No, sono uguali di multare i clienti, sì, certo, non multare. Sbatterli in galera, non torturarli, non mettergli la tuta arancione e legargli gli elettrodi ai testicoli. Però li vuoi multare, ecco, li vuoi, ti piace vuoi così multare il linguaggio? No, vuoi multare. Li voglio semplicemente multare. Senti questo Gigli, pensate, ecco, come stai messo. Pensa, guarda, senti questo Gigli di anche qua del NCD, non so che cos'è, NCD, Scelta Civica, ma è uguale. La prostituzione. Questa cosa non ha valore di tipo proibizionistico, ma ha valore di tipo educativo. Come, ma perché uno Stato dovrebbe educare? Mi perdoni, cioè, dobbiamo tornare allo Stato etico che educa i cittadini. No, perché lo Stato riconosce dei valori, tra questi c'è il rispetto e la parità tra l'uomo e la donna, c'è la possibilità che il corpo non diventi merce, è lo stesso motivo per cui noi vediamo, che ne so, la compravendita del sangue. Adesso la compravendita del sangue non c'entra un cazzo, caro Gigli, non c'entra una mazza. Non posso essere lo d'accordo. Stato deve educare, tu ti rendi conto a che livello siamo? Ti sei messo con questi, Stato deve educare. Le motivazioni sono diverse, non deve educare, uguale, io sono la contro lo Stato cosa. Etico. E allora dissociati da quello che hai detto. Sei un semplificatore, che sei un semplificatore. Ma che c'entra la semplificazione? Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Iniziamo con Massimiliano da Pescara. Massimiliano, buonasera. Vai, dimmi. Niente, avevo chiamato sera per l'articolo 18, se ne fa anni, hanno richiamato. Non me ne frega niente il motivo per cui ha chiamato, parli adesso di quello che vuole, forza. No, perché mi ha dato un'altra notizia delle multe per diciamo le prostitute e roba varia. Io ho una piccola situazione, c'è un amico che è un nano. E ogni tanto l'accompagno io, perché io sono sposato, ho i figli e tutto. Sì. Lui mi chiede, lui non c'ha patente, mi chiede di accompagnarlo. Vorrei vederlo se gli fanno la multa. Cioè lei ha un amico, lei ha un amico nano, un amico se nano. Io l'accompagno a prostitute, l'accompagno io personalmente. Parenzo, che gli vuoi, vuoi fare la multa? Parenzo, vuoi fare la multa al nano? Ma no, va, può andare, no, benissimo. Come può andare? Ma hai detto che vuoi fare la multa anche al nano? Ma allora fai la multa anche al nano. Perché si ferma? Lo accompagna Massimiliano, come l'accompagna questo nano? Lo porti nei bordelli, quelli. Quali bordelli? Non esistono i bordelli. Quelli che ci sono in Austria. Sì, in Austria. Non so dove, tu sei l'esperto di bordelli. Ma stai zitto, fai parlare, dai. Ma allora forza. Che vuoi? Dove sei svegliato male? Fai parlare, che è successo? Dai, fai parlare. Ma vai sopra la voce di Massimiliano, fai parlare. Ma Massimiliano. Ti hanno punto oggi. Ma stai zitto, dai. Massimiliano. T'hanno punto. Lui all'appartamento, lui ha fatto il suo dovere che deve fare, perché lui non diciamo è quello che è, e naturalmente l'approccio delle donne verso una persona è molto riduttivo. Io l'accompagno, lui fa quello che deve fare, io vorrei essere mi multa perché io accompagno questo povero Cristo a essere uomo. Va bene. No, va bene. Tu dici che deve andare in Austria, sì, no? Deve andare c'hai in i soldi Austria. Per andare me, in Austria, sì, per me, no, deve, no, per me no, oggi. Io non ho i soldi, nemmeno lui, poveraccio. È un povero, prende anche la pensione. Cioè questo nano vuole andare a prostitute, vuole fare all'amore, lo dico così, bene, così ti piace? Ma vuole fare all'amore. Ed è anche un bravissimo uomo, perché ha una certa età, ha più sì, di sì, ma non c'è dubbio, sto, ottimo. Ma infatti, perché lo vuoi multare? Scusa, ma non lo voglio multare, sì, lui, vuoi multare quanto, lui perché si ferma la persona che ha bisogno di andarci. Io ho detto che voglio vorrei io, ma mica solo io, combattere lo sfruttamento. Ma che c'entra questo? Ma che c'è nello sfruttamento? Che cosa c'è nello sfruttamento? Ti voglio dire questo. Fatti dare una lezione da Massimiliano, dato che non hai capito. Fatti dare una lezione. In alcuni casi, siccome tu non sai se la ragazza che è per strada, anzi nel 90%, 80% sicuro, le ragazze sono sfruttate, sottoposte a un racket, spesso picchiate, allora, so che sei insoddisfatto. No, no, non sono insoddisfatto, sto sentendo. E allora, siccome il caso è spesso ma scusa, questo, mi dispiace per il nano. Massimiliano, il nano? Mi dispiace moltissimo. Il nano è a conoscenza dello sfruttamento? No. No, io non lo dico, infatti. Lui vuole fare quello. Lui non andrebbe là se qualcuno. Non so se mi capite. Lui non andrebbe là se qualche donna. Certo. Non lo metterebbe in quella categoria, diciamo, lasciamo perdere, perché c'è una canzone bellissima del nostro cantautore che dice che il buco del culo è più vicino al cuore. Sì, De André. Se qualche donna se lo filasse, e sono io che dall'articolo 18, io sono un professionista da 25 anni. Vabbè, se ma a me le ragioni del perché uno va mi interessano poco. Le ragioni perché uno va, uno può andare per 2 milioni di ragioni. Io non sono io a sindacare. Chi sono io per sindacare? No, tu stai perché uno va. Stai dicendo siccome c'è lo sfruttamento allora bisogna punire con me. Bisogna punire con la multa. Esatto. Vabbè, non sindaco perché uno va. Del nano, dai. E allora, prendere sigarette, mi fai anche la multa perché si affana sborrata. Scusa, no, scusi, adesso questo qua, adesso siamo alle 18. Vabbè, nel senso, non volevo quell'altro perché va a ramazzare per essere un po' più italiani. No, beh, adesso Massimiliano, sono le 18.53, uno potrebbe anche meno, evitare. Va bene, diciamo, potrebbe però, anche no, evitare. Però mi fanno la multa e sembra logico? No, scusi, allora Massimiliano, sto nano, quante volte va a prostitute? Ma io due volte al mese ci va. Due volte al mese, due volte. Ma perché l'accompagni tu? Scusa, non ho capito. Perché non c'è la patente. Ah, a me non chiedi, gentilmente l'accompagno. Vabbè, manco la patente c'ha sto nano. Cioè... No, non ce l'ha. E vabbè, perché non ce l'ha? Perché i nani guidano di solito, no? Ce l'hanno, ma lui c'ha i suoi problemi, naturalmente. Vabbè, c'ha i suoi problemi. Tu l'accompagni e la ma non mi pare questo, mi pare invece, perché questo no, Massimiliano sta dicendo che ha un nano. L'amico pagherà la multa. Ma non vuole, ma perché bisogna dare la multa a questo poveraccio? Perché adesso lascia stare il nano. Può essere il nano, può essere altissimo, può essere qualunque cosa. Hanno istituito l'assistenza sociale per i disabili, no? L'assistente sessuale dei disabili. Nessuno ha detto niente, tutto giusto, tutto corretto, eccetera. A pagamento, naturalmente. Una sorta di prostituzione anche quella, perché queste qua che fanno sesso con i disabili saranno pagate. Non capisco qual è la differenza. Ti dovresti opporre anche a questo, allora? È una forma di prostituzione? Cioè, lo Stato autorizza questo per i disabili? No, quello va benissimo. Infatti, è una questione sociale che va benissimo. Io mi oppongo solo all'aspetto dello sfruttamento di quelle che vengono picchiate, rapinate dell'incasso. Ma stai dicendo delle banalità totale, ma questo tutti, sono contro mia questa roba tante qua. Banalità che ma sono tutti contro questa roba. Contrari allo sfruttamento, quella è la cosa normale. Allora, ma nel dubbio, come dovrebbe fare? Allora, qual è il passo in avanti che io faccio, secondo voi, sbagliando e attaccandomi l'etichetta di bacchettone? Io dico, certo, vuoi, vuoi la multa, vuoi? No, sei a favore della multa? Siccome nell'80% dei casi lì c'è sfruttamento, illegalità e violenza, sì, per evitare queste tre cose, la multa forse è un deterrente. Ecco, il proibizionismo, allora, il proibizionismo. No, non, io sono per le case ma quale che... deterrente? Ma quale che deterrente? Non è io penso che anche tu lo possa capire, penso. Deterrente, deterrente, penso. Dai, forza. Niente, allora, ciao Massimiliano, dai un abbraccio a Nano, Ma no, la persona adesso. Saluto a tutti e due, siete medici. Anzi, fammi parlare col Nano la prossima volta. Dopo dammi il numero. A casa, io sto lavorando. Dopo dammi sto numero del Nano, così lo chiamiamo. Scusa, Massimiliano. Va bene? Ciao. Ok, ripasso la luce, più tardi vi faccio chiamare. Sì, ciao, ciao. Guardi che io sono un tossicodipendente della Zanzara, capito? Vi ascolto mattina, vi ascolto la sera in podcast, sempre vi ascolto. Durante questo lunghissimo intervallo, caro David, lunghissimo, troppo lungo, ma questa è una vecchia storia, durante questo incredibile lunghissimo intervallo mi ha chiamato Vladimir Luxuria e mi ha detto che domani a mezzogiorno va a Palazzo Grazioli. Ragazzi, questa è la vera rivoluzione, vediamo che esce fuori ovviamente. Domani a mezzogiorno Vladimir Luxuria va ad incontrare Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. Incontro al vertice, bene. Queste sono le cose, non l'articolo 18. Beh, non anche, diciamo quello. Ma no, ma perché non cambia nulla? Maggiore ma nella vita delle persone. Ma non diciamo, cambia però nulla, perché vi stanno prendendo per il culo. Beh, qualcosa cambia. Non sicuro, cambierà questo nulla, niente, né sull'articolo 18, né sull'articolo 18. Quindi non va fatto anzi, nulla. Anzi, rafforzerà quelli che già sono assunti. Rafforzerà quelli che già sono assunti. Né soprattutto su quest'altra buffonata di Renzi del TFR, che è una cosa. Ho parlato prima con Giannino che mi ha spiegato tutto nei dettagli. Questa roba del TFR è una buffonata inaudita che Renzi sta vendendo all'opinione pubblica, sperando che qualcuno ci caschi, cioè sperando che qualcuno dica: ah cazzo, ci danno 100 euro in più in busta paga. Dunque lui dice gli italiani, una parte di italiani avranno 180 euro. È una cazzata questa cosa del TFR, non si sa bene se si può fare o non si può fare innanzitutto, ma soprattutto le cifre indicate da Renzi significherebbe che devono essere sborsati dei soldi dallo Stato. Ci rimetterebbe lo Stato che si frega una parte dei soldi per darli all'INPS, e ci rimetterebbero le aziende. Le aziende sono è una cosa pazzesca, cioè vi stanno vendendo e anche una... i lavoratori che se li spendono anziché tenerli da parte. Vi stanno vendendo una truffa colossale che è questa cosa di Renzi sul TFR. Sentiamo. Sul TFR ne parliamo, io so che c'è un sacco di gente che, è molto che discute molto di questa cosa. Cosa vuol dire? Anziché tenere i soldi da parte alla fine del lavoro, te li do tutti i mesi, che vuol dire per uno che guadagna 1300 euro un altro centinaio di euro al mese, che unite gli 80 euro inizia a fare una bella dose, insomma, cioè se recuperi 180 euro nel giro di un anno vuol dire che inizi ad avere un potere d'acquisto maggiore. Questo è lo spaccio di droga, cioè il vero spaccio di droga non è gli stupefacenti che vengono venduti per strada, che andrebbero legalizzati, soprattutto quelli leggeri. Il vero spaccio è questa roba qua, è dire che gli italiani avranno 180 euro più in busta paga, a parte che sono una parte degli italiani, non tutti ovviamente. È questa roba qui, questo è il vero spaccio di sostanze stupefacenti. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. Cosa deve dire? La Francia sfida l'Europa, basta austerità, c'è la crisi, sforeremo il deficit, anche l'Italia rinvia il pareggio, dura la Merkel, dovete fare i compiti. In Senato la discussione sulla riforma del lavoro, possibile emendamento del governo, il voto l'8 ottobre, Forza Italia, se Renzi fa retromarcia, diciamo no. Bersani al TG3, sul lavoro darò battaglia, ma alla fine voterò come vota il PD, non lascio il partito, ma Renzi deve distinguere tra destra e sinistra. L'anticipo del TFR in busta paga non piace ai sindacati, che chiedono invece meno tasse sui salari, molti dubbi anche da parte degli imprenditori. In arrivo la sospensione da sindaco per De Magistris, dopo il caso Why Not, l'annuncio in aula di Alfano, sprezzante l'ex magistrato, la sentenza, salutatemela. A Hong Kong la temeraria sfida degli studenti nel giorno della festa nazionale cinese, o il governo si dimette o occuperemo i palazzi del potere. Lampedusa, un anno fa il naufragio con 500 morti, le iniziative per non dimenticare, i superstiti dal Papa, la nuova vita di Seydou salvato dal mare. Ascoltate questa frase di De Magistris e ditemi se non è uguale a quello che dice sempre Berlusconi: se si andasse a votare sarei rieletto. È la stessa cosa che ha sempre detto Berlusconi. Sentite, sentite, De Magistris, che non si vuole arrendere, dice: la sentenza, salutatemela, forse sarà sospeso. Sentite. Io sono convinto che se adesso se andasse a votare potrei essere rieletto, perché stando per strada mi sono reso conto che il consenso su questo tema, perché tutti hanno avvertito come una schifezza quello che mi è accaduto, almeno nella città di Napoli, si possa ribaltare. Roberto da Milano, buonasera Roberto. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi. Allora, io do ragione a Parenzo quando parla di no sfruttamento. Aspetta un attimo. Squilla. Prima o poi. Uomo o donna? Uomo. Età? Che diceva Roberto? Che do ragione al dottor Parenzo nel momento, bravo, in cui mi dice che non vuole lo sfruttamento di queste ragazze. Per non è che non vuole, ma nessuno lo vuole, ragazzi. Perché dobbiamo continuare a battere sullo stesso tasto? L'abbiamo già detto. Ma è una banalità dire che. Ma è chiaro che nessuno vuole lo sfruttamento. E allora, per nessuno è a favore. Fai? Ma ci sono le leggi, legalizzi contro il racket. Legalizzi, ovviamente, ma non è che poi. Se tu punisci con una multa quello che si ferma davanti alla prostituta, o addirittura come vorrebbe il sindaco di Grillino di Pomezia, Facci, per carità, che si offenderebbe. Fucci, sì. Addirittura punire uno che parla, uno che parla con una prostituta, 160 euro, non risolvi nulla. Una beniamata. Questo è mazza, il solito grottesco mazza. 5 Stelle, certo, che fa diventare. Ormai dei 5 Stelle, diciamo la verità. Dei 5 Stelle si parla o per queste puttanate o altre puttanate ancora di Bilderberg o cose del genere, oppure si parla dei cantanti che andranno e non andranno alla Woodstock, quella al Circo Massimo. Cioè non è che si parla di contenuti, si parla semplicemente: andrà quel cantante? Non andrà quel cantante? Edoardo Bennato sì, l'altro no, Caparezza no, si parla solo di questo, non è che si parla di cose concrete, è completamente sparito dalla circolazione. Vabbè, Roberto, infatti, che diceva allora? Dai Roberto. Allora, quello che volevo dire era questo, che è inutile continuare a parlare di leggi che ci sono e via di seguito. Allora, applichiamo queste leggi. Beccare il pappone della prostituta è molto semplice, perché la prostituta non è che appaia come nasce un fungo dal terreno, cioè viene portata, queste ragazze vengono portate da dei papponi in macchina, scaricate. Basta prendere questi benedetti papponi, li sbatti in galera, gli togli tutti i soldi riconducibili a lui anche da parenti e quant'altro, sì, e in questa maniera smantelli un qualcosa. Ma è inutile dire no, abbiamo sentito adesso. Ma lei ha semplicemente detto che vanno arrestati i papponi, anche questa non è che mi sembra. Abbiamo ascoltato il telegiornale? Abbiamo ascoltato il telegiornale, stavano parlando dell'evasione fiscale. Sì. Hanno fatto 4 cose contro l'evasione fiscale che non servono assolutamente a nulla, e chiunque, io sono un artigiano, so perfettamente che finché faranno queste cose non riusciranno mai a risolvere il problema. Bene, grazie, io voglio il nano, io voglio il nano che va a prostitute prima della fine di questa trasmissione. Voi al di là del vetro pensate a procurarmi sto nano. Matteo da Milano, Matteo. Detta così. No, cioè, voglio il nano, ma non dico in senso offensivo, ha detto quello, il nano, adesso cioè, non si può chiamare uno per com'è. Il nano che va a prostitute, ma non si può dire nemmeno il nano. E vabbè, sì, allora però, diciamo uno che sfortunatamente è nato basso, invece di dire nano, perché Parenzo ormai è diventato così, che non si può dire manco il nano. Come fosse il circo, Portatemi il nano. Buon anno, portatemi. Vabbè, Matteo da Milano, dai, Matteo. Sì, buonasera. Sì. Io volevo intervenire su questo aspetto, cioè io mi sono anche rotto le scatole sentire in televisione tutta questa fobia del taglio dei costi, della politica, tagliamo lo stipendio ai parlamentari. Per me un parlamentare deve guadagnare il giusto, ma con un importo adeguato al ruolo che ha. Che ruolo, ma che significa il giusto ma con un importo adeguato al ruolo che ha? Non significa nulla quello che lei ha detto, nulla. Dovrebbe guadagnare il giusto, che vuol dire? Quanto? Ma allora, per me se uno guadagna 5.000 euro al mese a fare il parlamentare, 10.000 euro al mese, va bene. Su, ma no, 5 o 10 è una cosa, 5 è una cosa, 10 è un'altra, è il doppio, no? Lei lo sa. E se sono 10.000 euro lordi diventa 5.000 euro netti. Vabbè, allora Matteo, 5.000 va bene. Poi detto questo, che il taglio di questa politica non si fa giocando al ribasso su un ruolo istituzionale e importante e democratico. Ah, e che ci vuole allora? Di mezzi il numero. Ah sì, questo siamo, io ho una mia battaglia da sempre. Ah, non rompere i coglioni, Cruciani. Ragazzi, la notizia è questa, a voi non ve ne fotterà un cazzo, a me invece mi interessa, ma secondo me interessa molte persone. Vladimir Luxuria domani alle 12 ad Arcore, incontro al vertice con Berlusconi. Sta cambiando qualcosa qui, sta cambiando qualcosa. Speriamo che Berlusconi non se la faccia sotto un'altra volta, eh. Prima era in mano ai preti, ai vescovi, adesso è un po' più libero di dire come la pensa sui gay. Tiri fuori il suo essere libertino, il Berlusca, il suo libertinaggio, lo tiri fuori dicendo di essere favorevole ai matrimoni, almeno ai matrimoni gay. Basterebbe una riga sotto il codice civile, una semplice riga, non tutte le cose, i dico, i dil, che non, le milf, le cose, cioè, didore, sì, di, non è che non sono i dil, di didore, queste robe, cioè una riga sotto il codice civile, le stesse norme quando si parla del matrimonio, no? Le stesse, il matrimonio civile ovviamente, le stesse norme valgono per le persone con lo stesso sesso, dello stesso sesso, uomini, donne, cioè. Guarda, una riga, una riga. Poi vedete chi si sposa tra i proci, eh? Perché poi lì non è che la gente si vuole sposare, perché il matrimonio quando è pesante, con i diritti, i doveri, le carte, poi non si sposa più nessuno, non fanno i matrimoni finti, quelli, no? Allora, Luxuria dice perché si è rotta i coglioni della le ovaie, dice lei, che non ha. Credo semplicemente che soprattutto in Italia, dove il centrosinistra, diciamoci la verità, no, ci ha preso per il culo per tanti anni, vedendoci come persone che servivano solo quando bisognava prendere i voti, e poi una volta che si arrivava al governo tutti i temi dei diritti civili andavano sempre a finire in fondo all'agenda perché c'erano emergenze economiche da affrontare, tra l'altro neanche risolte. Quindi a questo punto io che mi sono rotta le ovaie di gente che ci prende per il culo, no? Ma c'ha ragione Luxuria, ha ragione Luxuria, amici miei, ha ragione. Il vero ostacolo è Agnese Renzi. Adesso qui si entra nel campo dell'interpretazione. Cioè, qui giustamente mi scrivono, ma sì. Palazzo Grazioli o Arcore? Cruciani ha detto Arcore. No, Palazzo Grazioli. Arcore è quello che dice Luxuria parlando Andresti ad Arcore, la domanda che abbiamo fatto ieri. Palazzo perché Grazioli, me l'ho chiesto questo mio amico Lorenzo Luzzi dell'Aria che tira. Dice, ma Palazzo Grazioli? Perché no, Cruciani. Palazzo Grazioli. Palazzo allora, Grazioli. Caro Lorenzo, Cruciani dice due punti. Palazzo Grazioli. Grazioli, Palazzo Grazioli, domani a mezzogiorno, domani a mezzogiorno. Tra l'altro io gli ho chiesto, ma scusa Vladimir, ma come ti vestirai? Beh, questo è un problema. E io ho detto, un problema nel senso che ci sta pensando, a lei che gli frega, sta pensando a come si deve vestire domani per andare a Palazzo Grazioli. Ma che roba è? Cioè, ma che c'entra? Uno va in un posto con Berlusconi, si deve vestire in un certo modo. Io ho detto, mi raccomando. Certo modo, come si deve vestire? No, normale, io ho detto, mi raccomando, sobria. Mi raccomando, molto molto sobria, gli ho detto. Molto molto sobria. Fatto bene? Sì, beh, certo. tu dici che Agnese Renzi è il vero ostacolo al fatto che Renzi dica una parola definitiva su questa roba qua. Sì, secondo me sì. Cioè, l'influenza della famiglia c'è comunque, anche per quello che riguarda i politici. Non è che i politici vivono avulsi. Gasparri se ne faccia una ragione. La Pascale, anzi Berlusconi ama più la Pascale di lui. Ma intanto Gasparri si deve fare una ragione, mi sa che tra lui e Pascale Berlusconi ama più la Pascale, quindi si deve un attimino rendere conto che all'amor non si comanda, sì. A grande richiesta torna la rubrica Perché l'Italia o i fatti che decretano che l'Italia è un paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Allora, in Sicilia se ne fottono altamente delle leggi nazionali. Una legge nazionale, infatti, aveva disposto 3 anni fa, un tetto al numero di consiglieri regionali, consiglieri provinciali, consiglieri comunali, eccetera, eccetera. In Sicilia se ne sono sbattuti i coglioni, tutti, la regione, le province, i comuni, e c'è un numero, sono state elette 198 persone in più. 198 persone in più. Il costo di questa furbata, leggo da Libero, 100 milioni in 3 anni. Ma tanto chi frega la Sicilia? Paghiamo noi. Questa è la merda d'Italia. Questo è. Allora, adesso si incazzerà il ministro della salute Lorenzin, eh? Il fattoquotidiano.it ha affidato qualche mese fa a un notaio i nomi di 2 dirigenti del Ministero della Sanità che, secondo il Fatto Quotidiano, avrebbero vinto un concorso, chiamiamolo concorso all'italiana. Il fatto è che quando sono usciti i nomi di questi 2 dirigenti erano gli stessi che erano presenti nelle buste che il fattoquotidiano.it ha consegnato al notaio. Cioè, questo concorso, il merito di questo concorso dove sta? I concorsi in Italia spesso sono tutti preconfezionati. I 2 nomi erano presenti nella busta del Fatto Quotidiano depositata da un notaio e gli stessi 2 nomi sono usciti fuori come nomine di dirigenti del Ministero della Sanità da parte del ministro Lorenzin. È uno stato di merda che andrebbe processato. Adesso ti do una notizia che ti fa scaldare, Parenzo, eh? Allora, sì. A Torino, no, cosa è successo? Sempre Italia paese di merda. Bambino rapito a Torino, sì. Il papà si è inventato che è stato un rom. Cioè ha perso il figlio durante una festa patronale. Quest'uomo, 31 anni, ha accusato... L'ha smarrito, certo. Quest'uomo di 31 anni ha accusato falsamente uno zingaro. È stato un rom. Naturalmente adesso è lui a essere sotto indagine. E te credo. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Eccoci qui, Andrea da Prato, buonasera. Andrea, sì? Dimmi. Sì, ciao, senti, no... Chiamavo io per entrare nel discorso di De Magistris, perché secondo me un po' di ragione ce l'ha, nel senso che, solo per questo discorso qui, che abbiamo fior fior di politici, fior fior di, insomma, di gente lavora nella politica, tutti condannati, insomma parecchi sono condannati per reati anche molto più gravi allora? Dell'abuso in ufficio. Secondo me, insomma, è molto più grave la corruzione, concorso esterno insomma mafia, ora non mi viene le parole perché sono emozionato. Ma non ho capito, lei sta dicendo che ci sono reati più gravi di quelli per cui è stato condannato De Magistris? Sì, e secondo me, diciamo, ma guardi che secondo me De Magistris, ma secondo me De Magistris è un po' come un bastone infilato fra le ruote di una persona che tenta di... Ma io questo non lo so, questa è l'interpretazione, diciamo, berlusconiana di solito, cioè quella per cui i giudici hanno voluto colpire De Magistris. Io questo non lo so e nessuno di noi lo può dire, secondo De Magistris è così. Ma la cosa è molto semplice, secondo me De Magistris non si deve dimettere per niente, solo che c'è un problema. Tu solo dici che... rispetto alla coerenza di quel che ha sempre detto si deve dimettere per questo. Ma è normale. Dopodiché l'ascoltatore nel merito ha ragione, cioè i reati sono diversi, non è che la corruzione, l'abuso d'ufficio sono la stessa cosa, sono reati diversi. Però è così, signor De Magistris, per quel che ha detto e fatto, in questo caso paga quello che ha detto, certo. Paga la coerenza di quello che ha detto. Poi ha ragione lei nel merito che il reato è assolutamente diverso. Cioè, ma no, ma non c'è dubbio, ma secondo me non si dovrebbe dimettere nemmeno in caso di una corruzione anche più grave in primo grado, perché uno guarda è innocente. Non è ecco, però il punto sul quale interviene la legge è appunto, siccome non è opinabile, dice ma secondo me, secondo te, secondo lui, si chiama legge in un paese civile, la legge è quella, non è essere legulei, perché se no dice no, scusami, però secondo me non è il fuorigioco, dice però c'era o non vorrei... c'era, fai la moviola sul diritto, dice facciamo la moviolina, vediamo un attimo, sentiamo il Ferrero cosa dice, il signore, il viperetta del diritto che cosa dice, no, ma non funziona proprio così. Ma certo, poi c'è la legge con le sue interpretazioni. La notizia importante della giornata che non hai dato, qual è? È terribile, riguarda la gatta della signora Le Pen. Cioè che ha fatto? Cioè, te lo dico io adesso. Il cane di Jean-Marie Le Pen ha sbranato, cioè sì. Il cane del vecchio ha sbranato la gatta della figlia. Ed è stato la figlia se n'è andata dal castello nel quale vivono insieme. Questa è cioè la rottura all'interno del fronte nazionale è avvenuta finalmente, sì. Non su questioni fascisti, non fascisti, guarda, ma su cani e gatti, capito? Vabbè, è la rottura tra i due, dici. È la rottura tra padre e figlio. Sì, rottura del fronte nazionale. Francia, il cane di Jean-Marie Le Pen sbrana la gatta di Marine. A proposito, qui siamo all'assurdo. Cioè, qui siamo all'assurdo. Leggo oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera che in America vogliono mandare in galera un ragazzo perché ha preso a calci un gatto. Adesso io dico tutto. Questo che ha preso a calci un gatto. No, l'America si divide, peraltro, è un coglione. Questo. Quello che ha preso a calci il gatto è un coglione. Su questo non c'è dubbio. È un imbecille. Io non prenderei mai a calci un gatto, mai, a meno che non mi assale, mi vuole, cioè, ma nemmeno in quel caso prenderei a calci un gatto. Dunque questo qua è un cretino, ma in galera, amici miei, no, in galera, perché tra l'altro questo gatto è vivo e vegeto, sta benissimo, cioè manco l'ha ammazzato, l'avessi ammazzato, non è che hai fatto una perizia adesso sul gatto, sta bene, tu in America, no, peraltro, io che c'entro, lo dicono i giornali americani, dicono The King, si chiama The King intanto, dicono che sta benissimo questo gatto sta perfettamente, ha preso un bel calcio, preso, ma però. D'accordo, ma va bene, ma non puoi mandare, va lì, però gli animalisti contano davvero e contano anche, ma molto, ma non puoi, no? Mandare in galera un poveraccio di ragazzo perché ha preso a calcio un gatto, un cretino, un imbecille, in America uno stronzo, sono seri, ma è un cretino, non c'è dubbio, ma non lo puoi mandare in galera perché prende a calci un gatto. Per gli americani invece sì, perché la lobby degli animalisti tu stai dando una notizia, che ne pensi tu, David Parenzo, che ne pensi, è una stronzata o no mandare in galera uno perché dà un calcio a un gatto? In Italia mi sembrerebbe assolutamente fuori luogo. Ma che lascia perdere in Italia, tu che ne pensi? No, però una bella multa gliela darei, ma pesantissima anche, cioè lo punirei, una punizione ci vuole sicuro, la legge in questo. Ma qui non si riesce a punire nessuno, vogliamo punire uno perché dà un calcio a un gatto? No, qui da noi in Italia, in America, in America si punisce come? In America invece si punisce come? Ma lascia perdere, io sto dicendo come la pensi tu, non quello che fanno in America. Io come la penso pensi? Che il carcere sia assolutamente eccessivo, ma un'altra punizione, una sanzione. Ormai sei appassionato alle multe. Multe ai clienti delle prostitute. A proposito, voglio un nano. Multe ai clienti delle prostitute. No, e multa un parere. A chi dà un io calcio ti dico un che gatto. Gli americani, basta, gli americani, ma non io, non ma ne posso, prenditela con gli americani. Non ne posso, non più. Non ne posso. Prenditela con i tuoi amici americani. Vabbè, ma che c'entra? Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Beh, ormai gli manca solo il Quirinale, amici miei, gli manca solo... No, ma di salire al colle ricevuto da Napolitano, perché ormai gli spot, della Pinotti. No, gli spot, che c'entra? Ma chi la conosce la Pinotti? Il ministro della difesa. Beh, ministro ma la difesa, ma la conosci solo tu la Pinotti. Beh, no. Allora, ma la conosci solo chi tu. Ci ascolta, a Genova, sottovaluti. A Genova manco l'avevano votata per fare il sindaco. Adesso è diventata ministro della difesa ed è candidata per il Quirinale. Alle primarie a Genova non si era fidata nessuno. Vabbè, ma lasciamo perdere la Pinotti. L'hai evocata tu. Gli manca solo di salire al Quirinale, perché ha fatto tutto, gli spot, è uno degli italiani più famosi all'estero. Stiamo parlando non di un politico, amici miei, di Rocco Siffredi. Ciao Rocco, come stai? Come stai tu? Bene, bene. Bene, non Quirinale, c'è male. Quirinale mi piace, perché finisce con Ale. Per forza. Basta aggiungere anale, una N. Anale, Quirinale, vado prima e li culo tutti. Beh, allora potrebbe dire anche il Viminale, scusa, più sì, semplice. Sì, uguale, però il Quirinale è più in alto, cioè Viminale. Vai su tu al Quirinale se li incula tutti, stupendo, meraviglioso. Vabbè. Ma da sopra sì, da sopra riesci meglio. Da sopra è sempre meglio. Se... Adesso beh, questo oddio, dettaglio anche, geografico. Anche sul stare qui, sotto ogni tanto non è male, no? Anche stare in una posizione sopra. Quando hai chi ci sa fare, sotto stai alla grande. Stai alla grande, stai alla grande. Però meglio, se, comunque in ogni caso stare sopra è sempre meglio in tutti i sensi, dico. In tutti i sensi. Senti, ti volevo chiedere una cosa, caro Rocco. Adesso parleremo di questa cosa incredibile che tu sei stato ospite. C'è anche una critica, leggo sul Corriere della Sera, che un porno attore non può andare a fare lezione agli uomini di come si fa sesso, perché altrimenti provochi un po' di spavento, un po' di paura negli uomini, no? Cioè un super dotato, un super attore non può fare lezione di sesso, perché altrimenti dice uno si spaventa. Vabbè, ma lasciamo perdere questa critica. Ma io non ho fatto lezione di sesso, ho detto la mia su quello che è soprattutto il problema dei giovani, nient'altro. Che è che c'è troppo Viagra in giro, hai detto, no? Che non serve a quell'età, io ho detto, volete... Ma è vero che c'è troppo Viagra, secondo te? Sì, ho detto, volete dare un messaggio positivo, volete liberalizzare il sesso per davvero, insegnatelo a scuola, perché lì c'erano, cioè noi abbiamo i pediatri che sono bravi con i bambini dove di sesso non se ne parla perché è giusto così. Poi abbiamo gli adulti, che ci dovrebbe pensare la mamma, il papà, la moglie, l'amante, la mamma, quello che sia, ma quell'età teenager, lo sai chi è l'insegnante? L'attore porno, la pornografia, YouPorn, non va bene tutto quello che ho detto lì, ho detto prendete veramente il toro dalle corna, in questo caso non sono io. No, assolutamente. Ho detto affrontate la situazione, cioè non facciamo gli ipocriti, tutti voi. E come si può fare l'educazione sessuale? Insegnando la scuola, togliamo un'ora di qualcos'altro. Che ne so, di latino, di greco. Ecco, sì, ma qualsiasi cosa, mettiamo un'ora di di sesso per quell'età lì. Allora, questa mi pare una proposta ottima. Cioè, la proposta di Rocco è questa. Parenzo è contrario sicuramente. Invece di alcune cose inutili, francamente, anche totalmente ormai. La gente si volta, i ragazzini si tirano la roba all'ultimo banco, un'ora di educazione sessuale. Ecco, io dico, Rocco, ma tu te la sentiresti di fare un tour nelle scuole? Ti giuro lo farei, ma gratuitamente, te lo dico adesso, lo prenderei veramente a cuore, perché vedo, e te l'ho già detto credo all'epoca, io faccio le discoteche, vado a fare le ospitate, vedo una marea di teenager, ragazzine e ragazzini che vengono da me a chiedermi gli autografi e le donne, le ragazzine che mi dicono Rocco, glielo dici tu a lui, al fidanzato, che non mi piace come mi fa sesso, vuole imitarti, mi prende, mi dà le sberle sul culo, mi abbassa la testa. Cioè tu dici che c'è troppo porno, però è curioso che dici che c'è troppo porno in giro, proprio tu lo dici, Rocco, che c'è troppo porno. Ma io non è che lo dico e basta, lo dico perché lo vedo, è un casino, a quest'età, l'età dai 12-13 ai 16-17 anni non ci sono i genitori, perché tutti i genitori credono di sapere cosa fanno i figli, oppure hanno voglia di pensarlo che sono tutti casa e chiesa, e non è così, sono gli amici a scuola che ti portano, il branco che ti porta ad andare a vedere le cose più assurde, e si vedono anche dei messaggini che arrivano sui telefonini. Senti, ma c'è troppo Viagra in giro secondo te? Troppo? Quello è assurdo perché lo vedo dappertutto. Guarda, ho appena fatto un campus qui a Budapest, t'avevo detto che iniziavo. Tutti i ragazzi, campus. I primi due giorni stavano tutti male, chi vomitava, chi dolore di testa. Ho detto, ragazzi, ma che avete fatto? L'altro ha portato il Camagra, l'altro il Viagra, l'altro. Ho detto, questi siete matti. Ma che siete matti? Dai 20 ai 30 anni non c'era uno che superava i 30 anni. Piano piano, ho detto a loro, facciamo un'altra strada, non prendete nulla, piano piano, rilassatevi. Io ti dico, già da metà settimana in poi andavano tutti come una spada, ma è così. Cioè andavano in che senso, scusa? Andavano come una spada in che senso? Funzionavano alla grande. Ma scusi, che corsi sono, Rocco? Cioè, li vedi vieni tu e Parenzo, guarda qui non si paga. Se si paga è uguale, ma non ho capito, ma tu li vedi fare sesso, no? No, gli faccio fare lo stage che parte dall'approccio come con una donna fino alle multi donne, più donne, più uomini, situazioni cioè un dalla po' singola più... donna all'orgia, cioè diciamo. Dalla A fino all'advance, diciamo, passando per la tecnica, passando per tutto quello che non devono fare assolutamente e tutto quello che devono fare. Beh, ma guarda ragazzi, ma questa è una scuola di pornostar che però è molto utile anche nella vita normale. Senti una cosa, ma io ho pensato che in realtà Rocco Siffredi, noi possiamo fare una proposta qui di Radio 24, Parenzo. Rocco, sì. per quello che ha fatto nel mondo, per quello Nobel, che dice. Ha realizzato, no, no, non esageriamo, no, non so. Per quello che è, andrebbe fatto cavaliere al posto del cavaliere, cioè andrebbe fatto cavaliere al posto di Berlusconi, cioè per un cavaliere che esce, il vero cavaliere del lavoro. Cavaliere che entra, un cavaliere esce e l'altro entra. Che dici, Rocco? Alla grande, io ci sto. Cioè, dai, ma proponiamo questa cosa. Cioè, chi è che fa i cavalieri? Qui c'è anche gente di Confindustria. Però un po' diverso, scusa. Basta che mi date anche tutte le ministre di Berlusconi. A cavallo poi ci vado per davvero. quelle sono affari tuoi. Dice, non è una metafora. Le donne di Berlusconi, sai, sono sempre le stesse. Qui mi arrivano messaggi e vai con lo stage di Siffredi. Sì, lui è un classico. Ormai hai già detto tutto su Berlusconi. Che voi dite più? Cioè, il tuo. Ma scusa, allora facciamo questa proposta ufficiale, cioè facciamo Rocco Siffredi cavaliere del lavoro. Nel mondo ci sono pochi italiani famosi, certo, no, oggettivamente Armani, cioè, ma c'è anche Rocco Siffredi, no, poi ha fatto un lavoro usurante per 30 anni, cioè, effettivamente la CGIL, dov'era la CGIL quando Siffredi si impegnava ogni giorno quotidie con 4, 5, 10, dov'eri Camusso? Oh. Dov'eri Angeletti quando il signor Siffredi era lì impegnato con quest'arma qua? Perché dici usurante? È vero, perché io allora ti dico solo che sei consumato ormai. Sono estremamente consumato. Sì. Ho una marea di persone che mi riconoscono e tante donne anche lì durante questo convegno di medici mi dicevano: ma perché tutti questi dottori ti stimano così tanto? Io ho detto: tutti amici di intimità, tutti quanti si sono fatti le pippe sui film porno. Quanti numeri di telefono ti hanno dato al convegno degli urologi? C'era qualche donna? Sì. No, mi hanno dato qualche carta da visita, ma tutto in maniera simpatica. Va bene. Volte stavo facendo una gaffa perché il professore a fianco a me lo stavo chiamando collega, però poi mi sono ritirato. Torniamo con Rocco Siffredi tra un attimo, lo proponiamo come cavaliere del lavoro al posto di Berlusconi, rappresentante dell'Italia nel mondo, chi più di lui? Quirinale mi piace perché finisce con ale, è bello, Quirinale, vado a prima il culo tutto. Siffredi è stato anche professore, diciamo così, al congresso italiano di urologia, dove c'erano anche degli andrologi per parlare di disturbi sessuali dell'uomo, di educazione sessuale, di come si devono comportare i ragazzi. Insomma, ragazzi, ne abbiamo viste tante, però questa devo dire che è forte. Mi sono ricordato, Parenzo, leggendo questa notizia, di quello che disse una volta Grillo sulla prostata. Te lo ricordi? Voglio avere una conferma dal professore. Sentiamo Grillo sulla prostata, poi una conferma dal professor Siffredi. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì! O se no fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21. Rocco! Grande Grillo. Totalmente d'accordo con lui. Ma è vero, cioè votarla tutti i giorni. Come, scusa? Votarla tutti i giorni. Ah, tutti i giorni, così tu dici la prostata è impossibile. Cioè, elimini la possibilità di avere un tumore alla prostata. Ma sei sicuro di questo? Te l'hanno detto anche esperti? Mille esperti, ho tutti di sapere che io, a parte che la svuoto per piacere, d'accordo. Però è venuto un professore sui miei set, una volta per fare studi sull'HIV, una volta sulla stitichezza, cioè apparentemente le donne che fanno molto sesso anale non soffrono di stitichezza, quindi lo consiglio a tutte le donne che ci soffrono. No, spiegami questa cosa qua, cioè le donne che soffrono di stitichezza, beh, questo è normale però perché devono fare sesso anale. Questo... un consiglio a tutte le donne, tutte le donne, vabbè, non è che ci sono solo le pornostar che soffrono di stitichezza, tu dici nessuna, no, però... No, tutte le pornostar che lui ha, con cui insomma ha fatto un po' di stage e tutto il resto, interviste, nessuna soffriva di stitichezza, tutte queste facevano sesso anale. Benissimo. E le ha seguite per due mesi. Va bene, invece sul, sul coso che ti ha detto sulla prostata invece? Che lui ha fatto un grande studio proprio sul tumore alla prostata, e la cosa più importante è svuotarla. Sì, per cui uno se trombi tutti i giorni, sicuramente, cioè ci sono molte probabilità, adesso non diciamo sicuramente perché queste cose non diciamo che se trombi la svuoti meglio, se ti fai le pippe la svuoti a metà, però va bene uguale. Beh, oddio, adesso questo qua è comunque il linguaggio tecnico, cioè. Il piacere, sai come si dice, no? Empty the pipes in americano vuol dire che si svuota da molto dentro, con tanta pressione, quando ti fai una bella chiavata. Se invece ti fai una pippa, ti esce fuori da questo. È vero, questo è vero, ragazzi. Queste sono spiegazioni tecniche molto importanti. Te, comunque, cioè, una chiarezza disarmante. Ma perché una chiarezza disarmante? Ragazzi, è la realtà, non è che siamo la realtà. È la realtà. Che tutti si interrogano esattamente. Sì, tutti si interrogano perché tutti quanti fanno sesso. Tutti quanti hanno paura del tumore alla prostata. Tutti hanno paura del tumore alla prostata in Italia. Anch'io, che ho 48 anni e comincio a pensarci al tumore alla prostata. Tu non ci pensi al tumore alla prostata? No, Parenzo, perché ne hai 38. Ancora no. Ne hai 38, 37, 38. Però da come sei messo in faccia qualche cosa. Ma per carità, dovresti pensarci. Parenzo, toccati i coglioni. Ma guarda, aglio e peperoncino a rotta di collo, guarda. Senti, a proposito, invece Parenzo faceva un'osservazione giusta quando diceva della CGIL che non è mai intervenuta. Perché in realtà st'articolo 18 di cui si parla in Italia... Per voi, no, per loro c'è il licenziamento per giusta causa. Perché ecco, non tu, funzionando quando il meccanismo... Esatto, diciamo, quando senti parlare cioè, di... parliamo un po' per allusione. Senza proprio sempre per forza spiegare, no? Nel merito, la gente capisce. Dai, dimmi. Cioè, quando l'attrezzo del mestiere, no? Lo strumento, quello che usi per governare, e, quando lo strumento non funziona, lì c'è il licenziamento per giusta causa, cioè non può esserci reintegro. Non è che il giudice arriva e dice: guardi, caro signor pornoattore, c'è il reintegro, cioè, non funziona. Non è che, cioè, da noi, nel tuo campo, questa roba qui dell'articolo 18 non esiste, certo. O sbaglio? Assolutamente no. Ecco, i lavoratori non tutelati. E passo lì, come, scusa? Lavoratori non tutelati. E allora che dicevi? No, se non funziona ti attacchi al cazzo per davvero. Non, ecco, non corre, in però, senso sì. metaforico. No, ma è vero, ha ragione Rocco. Guarda che a me anche l'assicurazione, tra virgolette, qualche anno fa ho provato ad assicurarmi, mi hanno rifiutato, la Lloyd's di Londra. Ma veramente stai dicendo? Sì, l'ha detto. Ma te lo giuro, a Roma ho incontrato un rappresentante da Lloyd's. E che volevi assicurare? Volevo assicurarlo perché ho avuto più di una volta dentate, ragazze un po' fuori di testa che me l'hanno morso, due volte sono stato all'ospedale con morsi e punti sull'uccello. E che volevi fare? Assicurarlo e ti hanno detto di no? Beh, giustamente, però devo dire la verità. No, mi hanno detto purtroppo nel tuo lavoro è troppo usurante. Difficile capire poi le problematiche, e io volevo assicurarlo anche nel caso di non funzionamento più. Lui mi ha detto, mi ricordo il rappresentante, disse: chi lo capisce se tu sei così tanto bravo a gestirlo così bene, a non farlo funzionare, poi noi da dove partiamo? Cioè hanno rifiutato l'assicurazione, i Lloyd's di Londra, hanno rifiutato l'assicurazione a Rocco, vi rendete conto? A Roma, io su questo non aprirei. Allora io voglio che però Siffredi, Rocco, il professor Siffredi, si incazzi con Parenzo, perché Parenzo è a favore della multa ai clienti delle prostitute. Cioè lui dice, caro Rocco, che per combattere il traffico di il racket della prostituzione, siamo tutti contrari al racket, allo sfruttamento, è evidente, no? Bisogna anche mandare un avvertimento ai clienti, multarli. Sai quelli che si avvicinano sulla strada? Ho detto un'altra cosa. No, gli vuoi dire qualcosa tu, Rocco, da liberale quale sei o no? Ma io ti sentivo prima e parlavo. Io sono stato in America. Avevo mignotte anche quando facevo i film porno in America, pensa tu, la sera che non lavoravo. E vedevo una cosa schifosissima, le poliziotte facendo finta che facevano le prostitute, come ti arrivavi lì vicino, ti chiedevano, ti facevano delle domandine strane, tu dovevi capire se tu dicevi che eri disposto a pagare, veniva arrestato all'istante. Cioè c'è proprio addirittura l'esca fanno, è una cosa che io trovo deplorevole. Però non capisco, gli americani sono sempre estremi in tutto, cioè voglio dire, fanno di tutto di più e poi alla fine sono dei grandi moralisti. Però il discorso delle prostitute, ma dai, non si può multare, sono contro qualsiasi tipo di sfruttamento, ma se una ragazza ha voglia di fare come lavoro, il certo, lavoro di c'è. Dedicarsi esatto. a un uomo, vabbè, ma quello va bene, farlo ma... divertire, ma che cazzo c'è di male? L'uomo, cioè voglio dire, c'è chi si fa massaggiare un piede, chi si fa fare i massaggi normali, che adesso i massaggi sono diventati tutti con happy end. Quindi sì. voglio dire, sono tutte mignotte. Non c'è solo gente sfruttata, c'è gente che vuole fare questo mestiere no. perché guadagna di più, gente che prima guadagnava. Sì. Hai visto degli esempi, 600 euro al mese, e che invece vai in Svizzera e ne guadagna 20.000. Guarda, io posso dirti una cosa, questa è veramente. Ma tu sei mai andato a prostitute, molto. Scusa, tu che non hai mai avuto bisogno. Tutta la vita ci sono stato, figura. Cioè, hai pagato per scopare. Ma tantissime volte, ma te l'ho detto anche una volta. Quando ho smesso di lavorare, che ho fatto più di sì, ma pagare addirittura 1.000 prostitute in 2 anni. Ma è normale che pago, le prostitute mica te la danno gratis perché ti chiami Siffredi. Mi è anche capitato qualcuna che mi ha detto: oh, che uccello che hai, perché non fai il porno star? però questo all'estero, no, ma questo mi è successo più di una volta. Ma la cosa che volevo dire, no, la cosa a cui tengo tantissimo, che volevo dirti. A parte il discorso delle dimensioni, no, è che io quando trovo, ed è vero, una ragazza che sta dietro un bancone, sì. che sta in una pizzeria a pulire per terra, bellissima, sì. e ti dice: io faccio questo lavoro perché ho una dignità e non venderei mai il mio corpo per il sesso. Io ho veramente tanta stima per questa gente. No, ma certo. Perché ho tantissima stima, però ho ugualmente tanta stima per una persona che dice: a me non me ne frego, sono una bella ragazza, ho voglia di vendere anche qualcos'altro, è una scelta. Ma io nessuno discute di questo. Ma infatti è una scelta libera, no, ma bisognerebbe farlo capire a chi vuole eliminare la prostituzione, che è un lavoro come gli altri. Punto. Nessuno vuole eliminare la prostituzione. Un'ultima cosa, ma la Pascale ti ispira? Chi? La Pascale, la conosci? Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi? No. No, non ti ispira? Non ti ispira. No, non molto. Cioè c'è di meglio, dici? Ma c'è la chi? Quella dai, come si chiama? Chi? La Garfagna. No. Chi? Oramai mi sono buttato sul renziano. Ah, ormai sei, beh, certo, quella di Berlusconi, la Boschi, dice ancora la Boschi. No, la Boschi. Io sto aspettando la Boschi. Ma no, vabbè, ma la Boschi, dai, la Boschi non ha. No, io sto aspettando la Boschi. Ma perché c'ha quella faccia da professorina con gli occhiali? Gli voglio dire qualcosa di molto più piccante, voglio portarla a un altro livello, tu lo sai, il next stage. Beh, voglio farti cambiare espressione. Addirittura, perché però quest'estate hai visto le riviste col bikini, eccetera. Ma secondo me lei è molto paracula. Si diverte molto a giocare. Sì. E secondo me ha tanto da dire invece. Ha tanto da dire. Io per me non mi ispira per niente. Vabbè, comunque, Rocco, ti abbraccio. Ciao, a presto. Ciao caro. Ciao, abbracci, ciao. Il grosso problema in Italia è che non si tromba più. Ma se lei le tolgono il microfono, non tromba più pure lei. Il momento, popolo della zanzara, dei tipi da zanzara. Tipi da zanzara. Riccardo da Roma. Riccardo da Roma, buonasera. Buonasera, mamma. Ciao Riccardo. Mamma mia, salve. Dimmi. Mamma mia, cioè, come ho sentito Mastella al telefono, guarda, una cosa allucinante. Allucinante. La sua amicizia, cioè, con Della Valle, dici? Mamma mia, guarda, a parte che io penso che peggio di Mastella ci stanno solo i comunisti, perché è proprio una cosa vomitevole. Sì. Comunque questo Della Valle ha quasi diciamo adombrato Mastella la possibilità che potesse essere l'uomo della provvidenza. Ma che cazzo è Della Valle? Ma Della Valle, Montezemolo, gli Agnelli, tutti sti magnoni che sanno fare gli imprenditori col culo di noi, cioè dello Stato? Perché sanno fare gli imprenditori con gli aiuti pubblici? Sanno fare gli imprenditori con le leggi ad hoc? Genio. Ma perché Della Valle, signore, non sta con Italo, la concessione ad hoc, non è Italo e Montezemolo, il trenino loro che tra l'altro sta a perdere la barca dei milioni e chissà quanto ci dovremo mettere. Ma questa non è la gente che vengono chiamati a fare i capitani eroi coraggiosi per salvare le compagnie tipo l'Alitalia, ma coi soldi nostri, perché loro ce ne mettono un po', poi se ne pigliano il doppio, se ne vanno e ce lasciano migliaia, milioni di soldi da pagare, di parassiti. E poi attaccano Marchionne e Berlusconi e quei pochi altri che sono unici imprenditori con le palle, che si buttano in settori con concorrenza, in settori con squali. Berlusconi è uno che lui e il figlio c'hanno i coglioni che li fumano e si misurano con Murdoch. Marchionne è uno che è stato in grado di andare a comprare la Chrysler, cioè la Fiat con le pezze al culo, compra una fabbrica di macchina americana. Ma chi cazzo è, Mandrake? Cioè, ti giuro, questa è gente che andrebbe premiata, apprezzata, che andrebbe invitata, che questa è gente dalle cui labbra pendere. Se non fossimo in periodo di cazzate tipo articolo 18, il signore che ha fatto sentire prima, sì, c'ha ragione da vendere, è un grande, sono d'accordo al 130%, anzi ci è andato giù anche Morbido, perché non ha detto che non è che il giudice dà ragione perché la parte più debole, il giudice dà ragione perché nel 99% dei casi è un testa di cazzo che non ha mai lavorato, tipo Parenzo, è un radical chic da 3, 4, 5 mila fischi al mese netti, che non sa cosa vuol dire il sudore della fronte, che non sa cosa vuol dire rischiare il culo a non prendere i soldi lui a fine mese per pagare le famiglie dei dipendenti, non lo sa. Scusa, che ne pensi di questa? È un'altra cassa di impuniti, sì, che qualunque cosa accada, legge dello Stato, e hanno lo stipendio a fine mese. Qualunque cosa accada, possono andare in galera, possono essere in guerra. Io sono a favore della riforma dell'abolizione. Se fossi tu a decidere, se fossi solo tu a decidere, non Matteo Renzi. Vedi che sei una testa di cazzo che non capisci? Io non ho il prosciutto sugli occhi, non sono ideologico come pensi tu, brutta testa di cazzo. Io invece, ma come è ideologico? Ogni volta che ci vuole le pitiglie le chiculo. Ma io sono d'accordo con te. Le condannate per una vita, a proposito, oggi la guerra è compleanno suo. Gli hai dato le condannate per una vita e poi te l'ha tolto. Ma io sono d'accordo con te questa volta sull'articolo 18. Ma ti chiedevi prima che Salvini ci ha messo 16 anni a fare l'università, sei messa a ride quando l'idolo tuo Travaglio si è laureato in lettera 32. Tipi da zanzara. Parenzo si fa dare lezioni anche da Razzi, senti. Sentiamo Razzi, Razzi dalla gabbia sulle prostitute. Razzi meglio di Parenzo, qui lo possiamo dire, oltre che meglio di Renzo Piano, Razzi meglio, cioè, di Parenzo. Siamo in buona compagnia. L'anno prossimo abbiamo una grande manifestazione qui a Milano, che è l'Expo. Sì. Ma guarda caso ci sono 16.000 prostituti che già arrivano per, in occasione dell'Expo, perché deve accontentare i clienti che arrivano. Sti numeri da dove? Ma è mai possibile? Ma sti numeri da dove è che li prende? 16.000? Io mai ho pagato, anzi qualcuno mi ha pagato a me. Siccome guadagnavo poco, quando al primi tempi lì in Svizzera, guadagnavo molto poco, e allora molte volte mi finiva la benzina alla macchina. C'era il ragazzo che voleva venire, andiamo là, andiamo qua, se mi mette il pieno alla macchina, andiamo, se no dico, la macchina quindi, non cammina. E allora mi mettevano il pieno. Ma soldi... E lei in cambio cosa dava? Io davo tutto, e davo tutto quello che tutto desiderava lei, e ci mancherebbe altro, che gli volevo dare? Mica gli davo le caramelle. E lui conosce bene la Corea del Nord, com'è la prostituzione? Com'è regolamentata? Ma sarebbe interessante. Non c'è. Quindi è possibile che non ci sia. No, non ce n'è. L'alternativa alla prostituzione è la dittatura. Non vedi una donna per strada, ma nemmeno a pagare. Ma dove? Ma no, no, le donne ci sono. No, ma le donne. Ma nemmeno diciamo a fare che, la spesa? No, che, beh, la spesa lo vanno a fare, ci mancherebbe altro. Ha ragione Razzi, ha ragione Razzi che la vuole legalizzare. Comunque, beh, io sono d'accordo, allora, Barbara Palombelli, come ha ragione Barbara Palombelli quando dice esattamente questo: in un paese allo sbando come il nostro, chi prova a uccidere l'ex fidanzata con 16 coltellate è ai domiciliari, e Fabrizio Corona, per avere venduto delle foto, in realtà non solo per quello, sconta 9 anni di carcere duro. Sì, cioè, mentre il commercialista che ha cercato di uccidere la sua ex mangia la minestra a casa, Corona perde chili e si sta ammalando. Adesso Corona perde chili e si sta ammalando perché decide anche di fare così, perché reagisce male psicologicamente al fatto che gli hanno dato una pena speciale. Però è vero, come si fa a parlare di giustizia quando un tizio che ha provato ad ammazzare una sua ex con 16 coltellate ai domiciliari e Corona è in galera? E poi bisognerebbe dare un premio alle coppie italiane che, per aggirare i tempi lunghi dei divorzi nel nostro paese, hanno cercato di fottere lo Stato prendendo residenze inesistenti in Inghilterra. Cioè, ci sono un sacco di coppie italiane che, per aggirare il fatto che da noi divorziare è una pena pazzesca, passano anni, si sono fatti fare residenze fittizie in Gran Bretagna, fottendo sia lo Stato italiano che lo Stato inglese. Però in Inghilterra sono un po' più rapidi nella giustizia. Cosa hanno fatto? Cioè, le hanno scoperti, hanno cancellato questi divorzi, adesso questi qua se la prendono in quel posto. Ma bisognerebbe dare una medaglia a queste coppie. Massimiliano da Pescara, mi sembra, insieme al famoso nano. No, al famoso nano, Massimiliano? Sì, sono qua. Eccoci qui. Come si chiama il signor nano? Francesco. Ma è un nome finto? Sì. Beh, certo. Allora, lo chiameremo Francesco. Passami, ciao. Francesco, dai, grazie. Sì, te lo passo. Pronto? Francesco, come stai? Buonasera a tutti, bene. Bene, bene. Quanti anni hai? 34 anni, e sei affetto da nanismo dalla nascita, immagino, no? Sì. Senti, ma come te la passi innanzitutto? Benissimo, alla grande. Beh, benissimo, alla grande, sì, però hai un problema che è quello delle donne, giusto? Sì. E che fai allora? Ti fai accompagnare da Massimiliano? Sì, siamo amici, dagli amici andiamo, poi io vado, lui aspetta. Sì. Ma dove ti fai accompagnare? Dalle prostitute. No, ma dove? In che posti? Per strada? No, vedi. In camera. No, d'accordo, in camera, però ti fermi per strada, oppure ce n'hai alcune già fisse? Fisse. Ce n'hai alcune non fisse. Esiste problema per il signore. No, non esiste problema, però ha paura di poter essere multato. Magari un giorno gli viene lo sghiribizzo. Massimiliano, accompagna il signor Nano Francesco. Ma lui sa dove andare, quindi evidentemente sa dove andare e non c'è sfruttamento, evidentemente, da quelle che valeva benissimo. Ma tu pensi che multare i clienti sia una follia o no? Beh, ovviamente sì. Ma senti, scusa una cosa, ma è possibile che non c'è una donna con cui tu ti puoi accoppiare se non una prostituta? Fino adesso no. Fino adesso no, Cioè, fino adesso tu sei andato solo a prostitute da quando sei sessualmente attivo, giusto? Sì. Vabbè, che deve fare? Però se sapesse che la donna è sfruttata non ci andrebbe probabilmente con quella, questo è sicuro. Ma alcune prostitute ti hanno rifiutato? No, mai. Mai, Mai. Ma chi preferisci come prostitute? Italiane, straniere? Domenicane. Come? Dominicane. Ma che ci stanno i domenicani a Pescara? Sì. Ma dove stanno? A Silvi, dove stanno? Esatto. A Silvi, io conosco. Ma non li conosco per le prostitute. Non li conosco. So che ci sono un sacco di straniere, soprattutto un sacco di prostitute che stanno a Silvi. Vabbè, sì. Massimiliano, dimmi la verità. Parenzo che dice che è inutile che lo ecci, che lo tiri in ballo contro di me. Perché è una persona per bene. È inutile che lo sguinzagli contro di me. Non lo sto sguinzagliando, sto perché dicendo. È chiarissimo quello che lui ti ha detto. E lui ti ha detto che va benissimo, perché ci va, ne ha bisogno. Va in casa, conosce le persone dove va, e quindi evidentemente sa anche lui che queste qui non sono sfruttate. Se sapesse che dietro che non sono c'è sfruttate, racket, lo sai tu, lo sai tu. No, glielo sto dicendo. Ma che gli frega Massimiliano del racket? Ma gli interessa, perché non è un insensibile Francesco. Come te. Signor certo Nano Francesco, le interessa del racket? Per niente. Non è che gli frega del racket, giustamente. Non è che si può interessare c'è il racket o non c'è. Non è che chiedi alla dominicana, che peraltro sicuramente ci sarà in quel caso il racket della dominicana. Ma dipende. Ma sì, quasi sicuramente. Non è che sono improprio lì. Lì c'è un'organizzazione che le piazza per strada, negli appartamenti. Quello mi pare evidente, no? Francesco, sì. O no? Sì. Però tu te ne fotti. Beh, esatto. Che te frega? Fa male, secondo me, però. Vabbè, ma comunque, fare sesso per un nano com'è? Complicato? Niente. Ma come per niente? Ci sarà qualche complicazione in più o no? No, veramente niente, la disolintente non è vero niente. No, cioè, dicono tutte stupidaggini, cioè, non c'è nessuna complicazione tranne il fatto che tu difficilmente puoi andare con un'altra donna perché le donne non ti vogliono. Esatto. È così, vabbè. Caro Francesco, signor Nano, arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao, ciao. Saluti. Ciao. Sono sfruttate, caro Davide, è inutile che è allora vanno che... multate, fine, se ma si vanno dibeccano. Multate, chi va multato? Il ma cliente. Lì in un mondo ridicolo, va bene, non vanno multate, ma cambio no opinione, ma tu allora. Pensi perché, per esempio, in Italia vogliono introdurre, io penso, no, che aspetta, se c'è aspetta. Lo sfruttamento, sì, la sì, violenza, ho capito tu sai cosa fanno alle albanesi, sì. Ad esempio, non lo so, ad alcune ma ragazze io sono albanesi, contro sai cosa hanno fatto, sì, alcune ragazze non, albanesi che hanno fatto, le hanno addirittura come tortura spento le sigarette sulle braccia, ma quelli là vanno presi e vanno allora, messi chiaro, in galera per 20 anni e buttata la chiave per strade, peraltro, la chiave. Molte di queste si vede anche ma che dietro ci sono le macchine con i magnaccia. Uno non può chiedere prima, scusi, lei è sfruttato, no, o no, ma tu molto, capisci, no? Ma no, non essere falso ingenuo, perché tu sai, ad esempio, i nostri amici delle Iene tante volte hanno fatto dei bellissimi servizi in cui hanno raccontato come l'hanno fatto vedere, in cui a un certo punto arrivavano in magnaccia dietro. Quindi quando sei in quella situazione lì è chiaro che ti rendi complice di un delitto molto grave, che è quello dello sfruttamento delle persone. E quando mai? Certo che è così. Però contenti voi. In Italia poi fanno sempre leggi, commi, codicilli. Per esempio adesso è spuntata fuori un'idea di fare una legge che punisce chi butta le cicche delle sigarette per strada, no? Beh, questo che, è giusto. Ma figurati, di multare, ma certo. Ci sono già le leggi per multare questi qua. Vogliono inventare un'altra legge. Io sono a favore, figuriamoci, sono a favore del decoro delle città. Appunto. A parte che è molto difficile beccare le persone. Il problema lì è culturale, non è un problema di leggi, perché non è che ci fai niente con la legge, altrimenti. Beh, sai, cominci a prendere una, due, tre multe, la ma terza dove? Multa, ma la sigarettina vorrebbe... la metti nel posa accendere, ma sì, ma ci vorrebbero, te lo dico io, ma ci vorrebbero migliaia di multe al giorno. Te lo dico io che da ragazzino giravo con il motorino e spesso passavo con il rosso. Alla seconda multa che mi arrivava, sì, il papà mi diceva: tesoro, rosso. Motorino sequestrato. Oppure quando andavamo, no, ma è così, cioè la legalità la è quella roba lì. Sì, eh. Però la cicca di sigarette è un'altra cicca cosa. Cicca di sigaretta, la terza volta che ti prendi 150 ma euro, ma è impossibile 200 che te la prendi. Ci vorrebbero poliziotti ovunque, non lo va puoi bene, fare, no? Scommetti che la volta che ti arriva a casa ci pensi due volte prima di ti guardi intorno e poi la butti, dai. Ti guardi intorno e poi la butti. Tutti i discorsi che fa Cruciani inizia dai soldi, dalla politica, ma va a finire tutta puttana alla fine. Capito se hanno trovato il no, non ho ancora capito se hanno trovato il cellulare di Sgarbi, credo di no. Hanno rubato l'iPhone di Sgarbi in un'area di servizio vicino Parma, dice che ha un sacco di numeri, ci sono delle cose molto preziose, insomma, ridategli sto cellulare, vi beccate pure 1000 euro. Radio Padania, questo Pellegrin vive solo su di noi, vive solo citando la Zanzara, altrimenti di che parli, Pellegrin? Disgraziato. Prima risposta, Cruciani, dai, non rovesciare la minestra, non rovesciare le carte in tavola, sei tu che ascolti me. Io la Zanzara non sapevo nemmeno che esistesse prima che voi vi occupaste di Radio Padania del sottoscritto. Io, neanche a pagamento vi ascolto. Quindi ci tengo, perché lì ho una mia onorabilità interiore. Per me ascoltare cose come le vostre sarebbe l'equivalente di sporcarsi. Quindi per favore. Ma poi comunque è una balla. Sei tu che ascolti me, non viceversa, per cortesia. Quindi non ti permetto di dire bugie, balle. Le bugie permettimi almeno di puntualizzare, quindi non dire le balle. Tu ti occupi di me con Cosimo Cauciù che mi registra tutti i giorni, io di te sinceramente me ne impippo, devo rispondere perché questo vuole la legge del branco, se vieni provocato e non reagisci sembri un debole, non vorrei soggiacere a questa legge, ma sono debole anch'io, purtroppo sono fatto di carne e merda come tutti quanti. Poi ti avevo detto, no, Pellegrin, per me è addirittura offensivo dal punto di vista però cacofonico, più che offensivo, ma quello è un altro paio di maniche. Mauro, mi raccomando, Mauro. Ascolta. Ma tu prima pensate si è messo in collegamento con il nano. Sì, il nano, tra l'altro, prima ho detto, ovviamente scherzando, prima ho detto en passant, adesso la gente fa ironie ridicole, nano dalla nascita, nano, è evidente. Adesso andiamo alla Parenzo, parla più a voce alta, qualcuno fa ironie ridicole su questa roba qua, è evidente che so che il nanismo è dalla nascita, non è che si diventa nani. Mandalo via questo qui, basta. Ma dai. Ce l'hai lì, ascolta, Cruciani, ce l'hai lì l'orrendo nano. Questa è buona. Mandalo, vi ha anche bestemmiato l'altra volta. Vabbè, l'altra volta non ha bestemmiato, ho capito. Mai l'altra più volta ha bestemmiato, non è che per uno deve essere condannato. Non è che uno deve essere condannato a vita. Mai più. Io non gli uno non può essere condannato per a vita. Sì, no. Per me non merita di intervenire più. Smettila su, che tu sei un bestemmiatore di professione pure. Io non bestemmio mai come vedete, quindi non gli godevi come un pazzo a sentire le bestemmie sull'iPad, dai. Io quindi lui non gli parlo. Sì, dimmi, Mauro. Cruciani, mettigli il tappo alla puzzetta. Il tappo alla puzzetta, che così non fa puzza. Allora, tu ti dicevi prima di Corona. A Corona è semplicissimo, perché è dentro? Non ti ricordi quel servizio di Sircana? Tu sai benissimo che Prodi è vendicativo, Prodi e il Vaticano, perché sai benissimo che Sircana andava a fare il lavoro che sta facendo da 4-5 anni il signor quello che faceva su Rai 3. Ma tu che ne sai? Ma ascolta. Allora, vuoi che te la dica io? A Verona c'è un carrozziere. Che aggiusta le macchine al Vaticano. Sì. Però perché dal Vaticano la portano a Verona? Perché? Perché lui, quando sono pronte le macchine, ci introduce dentro gli indirizzi mail dei siti dei gay e dei trans che vanno in Vaticano, che poi gli fanno arrivare col treno. Non è che c'è bisogno di fare tutto sto giro, io invece so anche questa. Vabbè, ma insomma, che hai chiamato a fare? Non ho capito, Mauro, che hai chiamato a fare? Spiegami. Allora, prima, a parte Corona che vince per una vendetta trasversale dei poteri forti, cioè Prodi. Vabbè, d'accordo. Poi Prodi scusa, ha fatto mettere in carcere Corona. Dai, Mauro, sei ridicolo, no, veramente. No, è la vendetta trasversale. Vabbè, poi, con quella cosa lì è saltato il governo Prodi. Allora, tu dicevi, no? Per gli extra comunitari così. Ma tu sai che gli extracomunitari prendono 43 euro al giorno e i disoccupati che si suicidano e i disoccupati come me che prendo 7 euro al giorno, è ovvio che io se riesco a lavorare lavoro in nero, ovviamente. Vabbè, ovviamente. Ma quello tu stai parlando dei clandestini che arrivano che prendono 30 euro al giorno, quello che è. No, 43. Vabbè, 43, vabbè. E allora poi c'è un idiota come Marino che addirittura offre 900 euro a chi ospita quella gente lì. No, 900 euro è fatto, è un calcolo fatto su un ipotetico. Ascolta, ma non provo vergogna nei confronti dei parenti di quei suicidi che si sono suicidati per questo governo vergognoso da 3 anni, che è un governo che è una dittatura. Vabbè, perché poi è un governo che non abbiamo votato. Come poi? E ti sembra poco? Vabbè, poi? Comunque, guarda, io ti dico solo una cosa. Cruciale. Dimmi. Allora. Voi andate a leccare pure il culo a questi. Guarda, non so come definire. A chi? Ma rivolgiti a Parenzo, non a me. Rivolgiti a Parenzo. Mi rivolgo ai poteri forti che io chiamo comunemente mafia politica. Sì. Comunque io. Ma di chi stai parlando? Tolgo il disturbo. Ma non mi suicido, col cazzo che mi suicido. Me ne vado in Sud America. A che fare? E vi regalo un anulare medio a tutti. Vado a vivere là. Ma che vai a vivere? Dove vai che non c'hai i soldi manco per piagne, Mauro? Ma che cazzo dici? Ma dici che non c'è una riga? Io sono stato in Germania, sono stato in Svizzera e vado in Sud America. Non ti dico in che stato, ma vado in Sud America. Ma chi se ne frega dove vai? Se vai in Sud America, in quale stato? Ma chi se ne fotte, Mauro? Se te ne vai? Parenzo è anche contesto, credo. In questa dittatura di merda. È contento anche. Vabbè, lasciaci in questa dittatura, non rompere i coglioni, dai. Ascolta un attimo. Ma Renzi, che ha avuto il coraggio 3 giorni fa di dire farò la guerra ai poteri forti, brutto coglione, sono quelli che ti hanno messo lì, coglione, ma chi vuole che ci creda una stronzata del genere? Ma nemmeno un ubriaco Vabbè. Parola, guardi, poteri forti. Vabbè, ma va, va, culo Renzi che c'è un patasca. Prima cosa c'era Berlusconi, c'era il 29% di disoccupazione, adesso c'è il 44%. Ma quello è tra i giovani, beh, dai. Su, smettila. No, te calmo. No, hai visto il PIL? Il PIL? Hai visto il PIL? Vabbè, il PIL, vai in Sud America, dai, vai in Sud America. Ciao. Oh, vaffanculo tutti, date a fanculo tutti, voilà. Ciao. Beh, la conclusione, caro Parenzo, affetto da mutismo. Affetto da mutismo perché ha deciso di non parlare con. Sì, non me ne frega niente. Con uno che bestemmia la radio in diretta. Senti, non mi va di parlare con questa roba. No, questo è quello che penso. Ha fatto un passaggio, un errore, l'abbiamo bastonato. Basta. Io non glielo ricordo, non mi interessa parlare con quello. Voglio concludere con Stefania Pecchini, poliziotta transessuale. Buonasera. Buonasera. Come stai, Stefania? Bene, grazie. Tu? Allora, bene, non c'è male. Dov'è che tu sei poliziotta? Dove esattamente? Della polizia locale di dove? Della provincia di Milano. Della provincia di Milano. Allora, 2 anni fa ha fatto l'operazione. Sì, prima esatto. Eri un uomo. Esatto. Come ti chiamavi, Stefania? Stefano? Come ti chiamavi? No, mi chiamavo Fabio. Fabio. Due figli. Anche. Sì. Due figli. Era sposata. Era sposata con una donna, ovviamente. Ovviamente sei separato o no? Sì, perché con il cambio dei nomi del sesso. Beh, c'è un caso. È stato annullato. C'è un caso però a Bologna in cui volevano rimanere sposati i due. Vabbè, ma sicuramente la trovo anche una cosa giusta. Non capisco perché la legge debba comunque annullare un matrimonio che è stata una scelta. Però tua moglie all'epoca non voleva, insomma, hai deciso di separarti. Questa no, noi abbiamo deciso di separarci perché noi abbiamo deciso, voglio dire, che. Beh, che avevate vite diverse e tutto. Certo. Senti, la Biancofiore l'altro giorno da noi, poi c'è tutto un caso da raccontare, tutta la tua vita, i rapporti con i superiori, il modo in cui è stata accettata questa cosa nella polizia locale, qualche problema l'avrei avuto, no? Un poliziotto locale con la pistola che diventa, cioè che da uomo diventa donna, qualche problema ci sarà stato o no? No, io nella mia carriera lavorativa decisamente no. Non mi dire che ti ha pure favorito sta cosa, no? No, non ho mai avuto problemi, ho sempre fatto il mio lavoro e anzi, sono diventata sovrintendente. Ah, cioè tu anche? Cioè, nel senso, non c'è stato nessun ostacolo alla tua carriera? No, nella maniera più assoluta. Voglio dire una cosa, Stefania, ma la Biancofiore l'altro giorno da noi ha detto che i transessuali non sa cosa siano. Cioè, non sono nulla in realtà, sono una roba che ha detto artificiale, artificiosa. Sì. Non sono normali. C'è uno che c'ha il gingillo di fuori, ha detto una che c'ha le forme da donna e c'ha poi un gingillo di fuori. Insomma, un gingillo. Cioè, non è una cosa normale, cioè è una cosa anormale. Ma io, guarda, alla Biancofiore avevo già risposto quest'estate a delle altre sue affermazioni che aveva fatto in merito alle persone transessuali. E gli ho risposto semplicemente con una frase dove dico che l'ignoranza è una cosa pericolosa, perché molto probabilmente la Biancofiore è ignorante nel vero, non sa quando parla di transessualità e di persone transessuali di che cosa sta parlando. Probabilmente lei, come la gran parte delle persone, perché fino adesso questo ci è stato insegnato, che si valuta la transessualità dall'aspetto estetico, no? Ecco, ma tu ti sei mai prostituita? No, perché non hai mai avuto bisogno. Io transessuali si prostituiscono, diciamo. Lavora lei. Purtroppo sì, finché ci sono persone che continuano a descrivere le persone transessuali come dei mostri o come delle persone fuori di testa. No, perché mostri? Scusa, si prostituiscono semplicemente perché non hanno lavoro e si prostituiscono. No, certo, ma finché ci sono persone come la Biancofiore che vanno comunque a dire che le persone transessuali non sono delle persone normali, capisci che una persona transessuale, se si presenta a chiedere un posto di lavoro e dall'altra parte c'è chi ha appena ascoltato la Biancofiore, dice scusa, ma hai capito? Ho capito che chi si presenta, però diciamo la verità, moltissime transessuali che ci sono in Italia fanno le prostitute perché guadagnano un sacco di soldi e non guadagnerebbero gli stessi soldi se ma magari no, ma c'è un dato. Tu quanto risorto, guadagni? No? Tu guadagni 2000-2005 no, al mese? No, io guadagno 1350 euro. Se facessi, se facessi la prostituta, dico, ne guadagneresti magari 5-6 tutti in nero. Ok. Ma tu non sai una cosa, ma perché le transessuali si prostituiscono? Spesso perché sono straniere vengono in Italia per prostituirsi. No, ma perché la transizione ha dei costi decisamente elevati e per potersi pagare la transizione le ragazze sono costrette a prostituirsi. Beh, però mi hanno detto che il cambio di sesso è rimborsato dallo Stato. Non c'è solo il cambio di sesso, c'è tutto dietro una serie di visite, di terapie, di altri, voglio dire, accorgimenti estetici che sono a carico della persona e sono costosissimi. Cioè, a te quanto ti è costato tutto questo passaggio, scusa? Più o meno, di tasca tua, quanto ci hai rimesso? Di tasca mia ci avrò rimesso, tra tutto quanto, almeno 20.000 euro. 20.000 euro della sua. Ma tu andresti a cena con la Biancofiore per farti, per chiarirle un po' le idee? Certo che ci andrei a cena con la Biancofiore. Invitala. Perché almeno con la Biancofiore, voglio dire, ci chiariamo a quattro occhi e vede che ha di fronte una persona normalissima, una donna normalissima. Ma lei dice che non siete nulla, cioè sono una cosa artificiale, mentre i gay sono una cosa e i transessuali non sono una roba artificiale. E allora ti ripeto che la Biancofiore dovrebbe studiare, anche andare un po' indietro nella storia, e studiare la transessualità dalle sue origini. E allora forse capirebbe che le persone transessuali ci sono sempre state. Per esempio chi è stato? Da che mondo è mondo? Ma no, c'erano antiche tribù, voglio dire, indiane, dove le persone transessuali anzi erano addirittura riconosciute come Però lei dice anche che la, come dire, la transessualità, il gingillo attira e dunque in qualche modo uno fa i soldi con quella roba lì. Allora ci fermiamo sempre all'aspetto estetico. Il fatto di avere il pene e il seno non è quella la transessualità. Beh, un po', però attira gli uomini, alcuni dice uomini che è una questione mentale anche. Gli uomini sono attirati, tu lo puoi testimoniare, gli uomini saranno attirati o no? Sì, ma sicuramente, certo. Cioè tu hai successo tra gli uomini? Adesso voglio dire, non lo so, bisognerebbe dirlo agli uomini. Come no? Lo devi dire tu se hai successo o no. Cioè, gli uomini ti cercano. Ma adesso io sono una donna, sono una donna operata e perciò avevo più successo prima, forse tra gli uomini. Ah, beh, certo, è vero, sì, prima dell'operazione. Perché gli interessava, voglio dire, mutualmente quello che stava in mezzo alle gambe. Adesso invece niente, sei meno. Adesso sono una normalissima donna. Sei una donna. Come tante altre che ci sono in giro. Però puoi capire quelle che, come quando tu eri transessuale prima, no? Puoi capire quelle che in realtà vogliono rimanere transessuale perché in realtà è una cosa che attira l'uomo, questo lo puoi capire? Sì, le persone che vogliono rimanere transgender perché attira l'uomo, certo che le capisco, ma io non le condanno. Io non condanno neanche le ragazze che fanno le prostitute. Io ho tanti amici che fanno le prostitute con le quali ci esco, vuol dire la sera. Sono sfruttate? Perché lo fanno? Per guadagnare perché di più? Te lo ripeto, perché hanno bisogno di soldi per poter completare la transizione. Va bene, ti abbraccio, grazie. Ciao. Claudio Foggia. Claudio, niente. Lino, Milano. Lino, dimmi. Buonasera. Vai, veloce, vai. Una veloce. Cosa veloce, sì. In merito all'argomento che avete trattato. Visto che così non si può in due battute, volevo soltanto porre alla vostra attenzione un aspetto che secondo me è paradossale. Solo questo. Sì, ma veloce, Lino, veloce. Sono velocissimo. Da una parte, nella società attuale, la donna viene utilizzata come mezzo di pubblicità. Troppo lungo, domani 18:30, ciao. Ma è normale che pago, le prostitute mica te la danno gratis perché ti chiami Siffredi. Mi è anche capitato qualcuna che mi ha detto che uccello che hai perché non fai il pornostar, ti giuro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sì, lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24. La passione si sente.